Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di L'urto della crisi, un libro che parla delle imprese, dei problemi delle imprese, dei problemi che stanno affrontando e che devono affrontare le imprese di fronte alla crisi, appunto. E abbiamo con noi Piercarlo Ceccarelli. Buonasera Ceccarelli. Buonasera Fabi, come sta? Molto bene, grazie. Grazie Ceccarelli, super consulente, economista di impresa, fondatore della società di consulenza Ceccarelli S.P.A. e autore di numerosi libri negli anni passati sul fronte appunto delle strategie aziendali, dei problemi che hanno le imprese di fronte alla crescita o talvolta anche alla non crescita. Questo libro, edito da Mind, parla dei leader d'impresa alla prova del grande cambiamento. È un libro che peraltro ha una prefazione di Franco Bernabè e anche una serie di, diciamo così, pre-recensioni di autori, imprenditori, giornalisti, tra cui appunto Sergio Dompé, Massimo Maccaferri, Enrico Sasson e Ferruccio De Bortoli. Tra l'altro Ferruccio De Bortoli, attualmente direttore del Corriere della Sera, dice non è un manuale, non è un saggio, non è una guida. Allora, dottor Ceccarelli, cos'è questo libro? Il libro è un viaggio nella complessità aziendale, la complessità che è stata scatenata proprio dalla crisi che stiamo ancora vivendo. E il viaggio era finalizzato a comprendere il grande cambiamento che attende i leader d'impresa e cercare e proporre soluzioni praticabili. Quindi è un viaggio attraverso i leader in un momento in cui la leadership è messa forse alla prova più che nei tempi passati? Assolutamente sì, perché la leadership porta a dei risultati e in questo momento i risultati sono difficili da conquistare e quindi la leadership viene messa in discussione. Ci sono nuove letture di questa disciplina e di questo modo di condurre le aziende che sono in formazione. Ecco, proprio De Bortoli dice contano ancora di più le qualità culturali e umane di imprenditori e manager, quindi non basta la tecnica, non basta la conoscenza delle strategie manageriali, occorrono le qualità umane, possiamo dire le qualità etiche, dottor Ceccarelli? Possiamo senz'altro dire qualità etiche, direi assolutamente di sì. Ecco, Franco Bernabè nella sua prefazione dice sono le stesse mie idee su come dovrebbe evolvere l'impresa, per rilanciare la crescita sono necessarie tre cose: un grande progetto condiviso, la disponibilità al cambiamento e la determinazione ad affrontare i problemi. Un grande progetto condiviso, in che senso, dottor Ceccarelli? Un grande progetto condiviso significa riuscire a mobilitare le risorse pregiate che abbiamo in Europa, che ricordiamoci è una stella polare per molti paesi nel mondo, dicevo appunto che abbiamo in Europa, e intorno a questi nostri asset incredibilmente interessanti saper mobilitare una popolazione di 400 milioni di persone, 500 milioni di persone per riprendere la strada della crescita. Questo non è facile da farsi e appunto insieme a Bernabè si ragionava sul fatto che dietro c'è bisogno di una disponibilità a cambiare e le resistenze al cambiamento sono sempre molto grandi, e poi ci vuole una classe dirigente che abbia la determinazione ad affrontare e risolvere i problemi. Ecco, in questa prospettiva le aziende ragionano spesso, forse sempre più spesso, sul breve termine, sui profitti a breve termine, anche spinte soprattutto negli anni passati da quelle che erano le compensi dei manager legate alle stock option e cose di questo tipo. Bisogna forse recuperare anche una visione di lungo termine nelle strategie aziendali? Ma questo è il punto di partenza, cioè la visione di breve termine è probabilmente la prima causa di tutto quello che è successo. È chiaro che quando i manager sono stock option a parte, ma sono invitati e misurati solo sulle prestazioni di breve o brevissimo termine, tutto diventa esagerato. Ed è quello che abbiamo effettivamente visto. Ecco, lei ha parlato appunto di cambiamento anche per affrontare una situazione che è sempre più complessa. Dove sta la complessità, diciamo, aggiuntiva nella gestione aziendale in questa fase politica economica? Ma dunque, negli anni trascorsi abbiamo assistito ad una interrelazione profonda tra quattro dimensioni che si sono accavallate una sull'altra in un modo incredibile: la demografia con la sua esplosione e la sua migrazione di massa, la tecnologia che vediamo tutti i giorni si sta proponendo nuove soluzioni, l'ambiente che è diventato finalmente una realtà da rispettare e da costruire per i nostri ragazzi, per il nostro futuro, e la finanza che ha dato modo di raggiungere la ricchezza a molte persone ma ha creato anche dei forti scompensi. L'interrelazione tra queste cose ha determinato un livello di complessità, potremmo dire un nuovo gradino di complessità, mai sperimentato prima, e gli strumenti di management hanno dimostrato la loro incapacità di porvi rimedio. Ecco, lei dice che la nuova leadership deve essere trasparente, integra, diretta. Trasparente vuol dire capace di usare questi strumenti di management con soluzioni nuove, con soluzioni diverse, che tengano conto appunto di una complessità di tanti fattori esterni? Assolutamente, è chiaro che la trasparenza è la prima, diciamo, virtù della leadership, perché la complessità nuova crea una conoscenza talmente dispersa e disgregata nell'organizzazione, per cui se non esiste un sistema di massima trasparenza non è neanche possibile un processo di riaggregazione e di formazione di una visione olistica con la quale, sulla quale costruire opinioni, cercare consenso e quindi muovere l'azienda verso l'azione. Ecco, lei infatti proprio nella leadership, parlando di leadership, dice carisma sì, ma meglio l'integrità sul fronte proprio delle doti appunto di capacità di essere trasparente, di avere una responsabilità anche di fronte al resto dell'impresa, ma del contesto in cui vive l'impresa, quindi è un modo di parlare in fondo della responsabilità sociale dell'impresa. Assolutamente, questo è diventato, l'abbiamo visto, diventare uno dei fattori trainanti del ruolo dell'imprenditore oggi, e credo che sia una strada ormai chiara e lastricata da dover affrontare con coraggio. L'impresa ha la piena responsabilità verso l'esternalità e il leader di impresa non può che porsi in una prospettiva di sostenibilità economica, sociale, ambientale, culturale. Ecco, ma con quali strumenti un leader di impresa può sfruttare appunto per affrontare questa complessità? Ma dunque, si parlava prima di recuperare il ruolo dell'uomo, quindi di superare degli strumenti deterministici che hanno caratterizzato gli ultimi anni. E le esperienze più interessanti sono quelle che si stanno costruendo intorno alla intelligenza multipla, multi-intelligence, cioè una nuova sociotecnologia del lavoro che rivaluti la centralità della persona, la coinvolga pienamente e permetta a ciascuno di noi di trovare la propria motivazione all'interno di quella che è la missione dell'impresa. Ecco, ma non è solo teoria, ci sono degli elementi, delle esperienze concrete su questo certo, fronte. Sì, certo, no, non è assolutamente teoria. Tra l'altro in Europa il paese più avanti da questo punto di vista è la Germania, che in questo momento vediamo come un faro, visto il progresso che ha registrato in questi ultimi 10 anni. E in Germania ci sono esperienze molto interessanti e concrete di questo approccio, ma anche in Italia. Imprenditori illuminati che desiderano guardare alla crisi come un'opportunità e intraprendere un percorso di rinnovamento stanno usando questi strumenti. Ecco, l'Italia però è un paese caratterizzato dalle piccole e medie imprese, questo è un limite per la crescita e anche per una professionalità manageriale? Questo è certamente la caratteristica del nostro paese che tutti conosciamo. Abbiamo detto che piccolo è bello, ma io non ho mai pensato che piccolo fosse bello. Le piccole imprese hanno bassa resistenza finanziaria e le banche non riescono a gestire in modo profittevole molti dei rapporti che hanno con loro. E quindi ci sarà certamente una selezione tra aziende meritevoli e quelle che non lo sono. Ecco, ma c'è un premio al merito della realtà italiana. Molto spesso si dice che l'economia italiana è un'economia più di relazioni che di merito e di professionalità. È vero anche delle imprese? È abbastanza vero anche delle imprese, perché il tessuto sociale poi è sempre lo stesso, non è che gli imprenditori fanno parte di un'altra realtà, però devo dire che gli imprenditori hanno la misura continua della loro performance e quindi in qualche modo hanno il coraggio di abbandonare l'economia di relazione per entrare in un'economia della trasparenza e dei risultati. Ecco, stiamo un po' in conclusione, oltre che il suggerimento di leggere questo libro L'urto della crisi, per Carlo Ceccarelli, che cosa consigli a un giovane che vuole appunto affrontare un'impresa ed entrare, avere delle prospettive di lavorare come manager in una piccola o grande impresa? Ma il primo consiglio è di adottare la modestia, perché l'ambiente dell'azienda è ben diverso da quello che lui conosce, la scuola, la famiglia, e quindi per poter imparare a conoscerlo ci vuole appunto la modestia. Questo punto mi ricorda l'inadeguatezza della formazione manageriale che avviene non solo nelle scuole italiane ma anche in altri stati. Poi dopo la modestia penso che il giovane deve cercare il significato di quello che fa, rapportare il proprio lavoro allo scopo che l'impresa si è data, capire il collegamento tra il particolare su cui sta lavorando e il generale, sviluppando quindi una visione d'insieme. Per ultimo, credo che ci voglia generosità, nel senso di non limitarsi al proprio compito, ma stare vicini ai colleghi e ai capi e imparare da loro, formulare proposte di miglioramento appena ci si sente in grado di farlo, ricordando che i capi di domani sono coloro che fanno proposte e non si lasciano solo tirare dal sistema. Certamente, coloro che offrono delle soluzioni e non solo che aggiungono problemi ai problemi. Grazie a Piercarlo Ceccarelli, ci ha illustrato questo libro, un libro molto ampio sulle strategie in azienda, le strategie dei manager, come sta cambiando e come devono cambiare gli atteggiamenti anche dei manager di fronte alla crisi aziendale. Lo ricordo, L'urto della crisi, leader d'impresa alla prova del grande cambiamento, di Piercarlo Ceccarelli, edizioni Mind, 224 pagine, 19 euro. Grazie a Piercarlo Ceccarelli di essere stato con noi questa sera, così come ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione e Roberto Scaltritti in regia. Grazie a tutti, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata.